O via volgete, o bella, quegli occhi fulminanti, e mirate carina, il vostro sposo che sospira in momento. Piano di tua bestialità son persuaso.